non pensavo tu fossi così. Davvero, al telefono ti immaginavo diverso. Io? Sei deluso? Come mi trovi? Sei bellissima. Nasce il videotelefono di casa di Telecom Italia. Basta la normale linea del telefono. Perché sentirsi è bello, ma vedersi è meglio. Signore e signori, buonasera! Siamo tornate. Vi siamo mancate, vero? In questa estate bollente. Secondo me no. Allora ce ne andiamo. Via, ciao. Via, ciao. Arrivederci. Metti la sigla, andiamo. Via, via. Oh, bentornati. Ciao. Bentornate. Siamo nella nostra regia che, come dire, ha avuto dei miglioramenti notevoli in quest'estate, sono stati fatti tantissimi lavoretti. Sì, è stato bellissimo vedere gli altri fare dei lavori tecnici. Esatto, io ho portato le birre un paio di volte. Non male, è importante. Un qualcosina. Però insomma è stata un'estate fruttifera, abbiamo sistemato un po' di cose, tra cui anche un bel mixer nuovo. Così ci sentirete meglio se io mi... Sì, ok, se io mi ricordo di accendere il microfono. È acceso. Guarda che qui è tutto sotto controllo, baby. Oh yeah. Nessuno bene. Mette baby nell'angolo senza microfono acceso. Cosa facciamo? Azzeriamo tutta la numerazione e ricominciamo da oggi? Sì. Puntata 1 della seconda stagione, bene, ce l'abbiamo fatta. La 2.0 scritto tutto in lettere. Esatto, 2.0 dell'Accademia della Brusca, sempre su Radio Wombat. Sempre splendide, splendenti. Io inizierei tipo dicendo subito che se vi siamo mancate ce lo potete scrivere. Una brava bella mail, apposta wombat@insiberia.net, nel caso l'estate vi abbia, insomma, come dire, bollito un po' i neuroni. Resettato la memoria interna. Come fanno tipo le ciabatte, no? Le ciabatte delle prese elettriche. Sì. Ogni tanto gli arriva la botta e partono. Il fulmine o la botta di calore, insomma. Altrimenti ci potete cercare su Twitter, Radio Wombat Fi, come Firenze. E su Facebook invece radio-wombat-firenze. Ma la cosa migliore è sempre quella di scriverci una bella mail e basta, ho finito. Una bella e lunga mail. Lunghissima, volendo, Mi raccomando, sgrammaticata. Sì, per favore, altrimenti poi sembriamo veramente le grammar nasi, esatto, della situazione. E non lo siamo. Io ho... Senza H. Che bello, sì. Sì, sarei molto contenta. Sì, e possibilmente dal computer, così non c'è nemmeno l'equivoco del T9. Esatto, voi ce lo diranno ugualmente. No, ma ho scritto col cellulare. No, sai, l'ho scritta dal cellulare, allora il T9 mi ha corretto un sacco Madonna di cose. Madonna sto T9. La uso anch'io questa scusa, ovviamente. Possiamo dirlo, la nenia usa la dettatura vocale di WhatsApp. Ogni tanto arrivano delle corbellerie meravigliose, tipo ciao punto esclamativo. Vuoto poto. Punto di domanda, virgola, vuoto poto stasera, perché spesso interferisce la radio in macchina e quindi lui memorizza parole in più che ha detto l'omino alla radio. Ecco. E okay. Quindi guarda, Che dire anche, questa seconda questa steccolata seconda stagione, come vedete, non siamo riposate per niente. No, anzi, siamo arrivate più stanche di prima, ma siamo sopravvissute. E siamo organizzate. Questa seconda stagione dell'Accademia della Brusca sarà, se riusciamo a tenere il ritmo, un po', come dire, più programmatica, perché vi faremo qualche excursus generale, come oggi per esempio, che parleremo delle lingue romanze, quindi ripartiamo, facciamo una tabula rasa e ripartiamo. E la settimana prossima invece parleremo di filologia germanica con la fiaba, cose molto carine, Grimm, Werner, ma non anticipiamo altro. E poi arriveremo con la nostra rubrica della parola del mese. Della settimana era un po' difficile, però sì, appunto pescheremo qualche cosa nel mare magnum, un po' letamoso di quello che è la comunicazione odierna, e vedremo se c'è un trend particolare. L'ho detto io, trend. Hai detto però anche Dammi magnum. Schiaffo sulle magnum. Perfetto, siamo nel mood giusto. Sì. Ti sento, ti vedo, sì. Lo so, lo percepisco. Sei sopravvissuta quest'estate? Sì, sono andata. Ti sei divertita? Sì. Brava, sono andata a mangiare, a bere, a fare le camminate. Hai fatto proprio bene. Poi sono andata anche al mare a mangiare, a bere e a mostrare la panza. Poi ci racconterai se hai letto qualche libro interessante. Sì, ho fatto, ma faremo una rubrica apposta sui libri che abbiamo letto durante l'estate. Che bello, ma ci sto, guarda, entusiasmo. Comunque sono sempre più dell'idea che ci vorrebbe una musichetta di sottofondo. Ma e ovviamente arriverà anche quella. Oggi era il primo giorno del mixer nuovo, non volevo sfarmi in troppe faccende. Allora io metterei subito facciamo una prima pausa. Il pezzetto delle sopravvissute. Fly away, there will be another day and people won't be afraid. Gli applausi erano qui in studio. Ovviamente, siamo sempre più numerosi. Sì, si sa, abbiamo un sacco di ospiti nel nostro nuovo divano. Yeah! Gli ospiti hanno alzato le braccia in aria con un sibilo. Per l'estrema comodità e conforto che donano questi nuovi cuscini. Pulitissimi. Sì, sono veramente pulitissimi. Disinfettati, wow, pensa. Wow. Wow, dovevo mettere lo spot della nonnina dell'ace. O quella dei Broncos. Quella non fa strap. Pulito a fondo senza strap. Allora, vediamo il tema di oggi. Bene. E qui entra in campo la Nina, ecco. Perché solo lei può gestire questo argomento, io ve lo dico. Io sto qui buona buona. Come tutte le volte che parliamo di qualsiasi cosa di origine romanza, io devo fare un saluto al mio adorato professor Zeno Verlato, che è insomma nella concorrenza, ma anche se lo incontro molto spesso per le strade di Firenze. Da quelli seri, esatto, da quelli bravi, veramente. Nella concorrenza. E dirgli insomma che io nonostante tutto gli voglio ancora tanto bene. Vedi, quindi, immagino la scena di te che incontri un uomo di quanto avrà ormai? 45. Ah sì, sì. Ah no, pensavo fosse, ah va bene, 45, cioè, immaginavo sì, il settantenne, sì, sì. No, tipo no. Io ti voglio un gran bene. Vabbè. No, no, no, è giovane e veneto, ah, per guarda, cui. Pensavo invece. Vabbè. Quindi dopo questa farsa possiamo iniziare parlando un po' insomma del bacino delle lingue romanze, perché nelle stagioni scorse, nella scorsa stagione, allarghiamoci, abbiamo parlato dell'italiano, dei suoi dialetti, considerandola diciamo come isola, come unità, si è parlato poco di tutto quello che circonda l'Italia, no? Quindi del suo bacino d'appartenenza in realtà, che è appunto il bacino romanzo. E oggi quindi facciamo un passo indietro, cerchiamo di dare una versione, una visione un po' più ampia. Numero uno, domanda numero uno, lo saprete più o meno tutti, ma cosa sono le lingue romanze o neolatine? Sono quelle lingue derivate dal latino, quindi sono quelle lingue che vengono anche parlate come primo idioma nel mondo da oltre 1 miliardo di persone. Quindi diciamo è secondo al cinese questo tipo di coacervo linguistico, poi insomma. E ovviamente se consideriamo anche i parlanti di seconda lingua, per cui siamo in tanti. E non sono in realtà, come si potrebbe pensare, un'evoluzione diretta del latino classico, ma sono delle varietà linguistiche differenziate, un po' non proprio a macchia di leopardo, ma contingenti, contigue, ma sviluppatesi in maniera differente a seguito appunto dell'espansione dell'impero romano. Quindi non derivano direttamente dalla lingua letteraria che conosciamo, ma conosciamo, che abbiamo studiato, ma non abbiamo prove che sia forse effettivamente l'autentica, bensì dall'espansione di questa lingua all'interno delle aree conquistate dagli simpaticoni romani. Sì. E oltretutto queste lingue romanze poi subiscono anche un'altra cosa, una mescolanza con quella che è poi l'influsso barbarico, ma ne parliamo forse dopo. Un'altra lezione. Esatto. Perché romanzo? È un termine che deriva da un avverbio latino, romanice, che è riferito al parlare un vernacolo, quindi romanice loqui, loqui, anzi loqui, loqui era un'altra cosa. Un'altra pasticchina per cane... la... No, tra l'altro Loki, da quello che sapevo, era il nome del chihuahua di Mickey Rourke. Davvero? Sì. Ma dai, ma che dici? Oddio. Cercate Mickey Rourke chihuahua su Google. Il problema è bellissimo. Mickey Rourke ha un chihuahua. Sì, sto smontando la regia. Al microfono. Cioè, Mickey Rourke è stato ha in un chihuahua. Sì. Pensa. Ognuno ha le sue. E assomiglia tanto alla Santa anche ora, è proprio lui. E anche Chihuahua, probabilmente, perché si sa che il cane assomiglia sempre al padrone. Esatto. Sai che quadretto, che scena meravigliosa. È tipo un Tondodoni, praticamente. Sono terribili. E quindi... Insomma, vabbè. Quindi chi viene preso in braccio? Il chihuahua trasporta Mickey Rourke sulla gomito in primo piano di chi è? Vabbè. Aiuto, comunque andatelo a cercare perché vi farete delle grosse risate. Nemmeno che non siate, insomma, state sue grandi fan negli anni Ottanta, tipo le nostre mamme, per cui. Beh, ma sì, bisogna comunque vedere cosa sta succedendo, esatto, nel frattempo, dopo il wrestling. E quindi, insomma, da questo latine loqui deriva poi, appunto, con l'influsso volgare, il termine romance, che è un termine francese. E poi l'italiano romanico. Romanzo, scusate, cioè, facendola molto breve. E bene. Queste poi sono anche, le parlate romanze sono conosciute così anche in dialettologia. Per cui c'è la linguistica, c'è la filologia, c'è la dialettologia. Esistono veramente, ci sono. Ci sono abbiamo davvero le prove, non è niente di inventato. Ci sono davvero. E ovviamente, indovinate un po', come si chiamerà mai l'area delle lingue romanze? La Romania, sì, che è corrispondente alla parte, diciamo, occidentale, occidentale ovest, dell'impero romano, della sua espansione, esclusa la Britannia, ovviamente, che d'altronde lo dice il nome stesso. E, però c'è la famosa macchia di leopardo, che è la lingua romanza nelle zone dei Balcani, quindi la Romania. Perché lì ci sono rimasti parecchio tempo, sì, insomma, lì ci sono hanno rimasti fatto tanto con l'impero bizantino ad Arsele, per cui sì, sì. E anche nel Nord Africa abbiamo avuto un'invasione però araba, che ha cancellato ogni traccia di lingua romanza, perché appunto i latini erano arrivati comunque, almeno la lingua latina con le conquiste dell'impero romano era arrivata anche nel Nord Africa, di conseguenza con l'invasione araba che è partita nell'VIII secolo ed è finita praticamente con la riconquista spagnola verso la fine del 400, è stata soppiantata dall'arabo, quindi abbiamo, insomma, tutte queste varie mescolanze culturali e linguistiche che sono sintomatiche della storia. Ma guarda che quindi brava, penso di avervi rotto le palle abbastanza. Tu dici? Allora io lo faccio partire. Facciamo un pezzo non romanzo, ma quasi provenzale. Lo facciamo? Lo mandiamo? Sì. Lo accendiamo tutto? Lo accendiamo, così è bellissimo. Via. Vai. Non diciamo chi erano. No, non diciamo niente, ci hanno già sgridate, quindi basta e passiamo al prossimo argomento con voce funerea e anche un po' così. E questo è un pezzo che ha il free download e io lo scarico quando voglio e lo metto quando voglio, capito? E se non vi va bene la prossima volta il free download non lo fate, ecco, non lo facevi. E poi diventate delle merdette, ecco. E delle merdine. Ecco. Mm. Mm. Invece perdete no. Tutto il potere che avete su Firenze. Quindi sembrava un po' una roba da Batman. Il potere. Oddio. Quante cose belle ci devi ancora raccontare. Questa puntata mi piace da morire. Oh, che bello. Andiamo avanti. C'ho queste patatine sotto che continuano a chiamarmi. Poi ora con questi fantastici microfoni dobbiamo avere proprio la boccuccia sul parasputi. Igienicamente. Dobbiamo stare ben appiccicate. E io le disinfetto spesso, sappiatelo. Abbiamo dietro le nostre spalle. Signorina Rottermeier. Ma lasciamo stare. Via. Orsù. Orsù e tupì. Allora, cosa possiamo dire? Quello che si stava dicendo poco fa relativo all'influenza in realtà di quella che è stata poi l'invasione di altre popolazioni all'interno dell'impero romano. Cosa ha provocato? Ha provocato la nascita di un sostrato, ovvero il latino si è esteso in tutto il territorio dell'impero romano ed è venuto a contatto con diverse lingue, ovviamente. Quindi non solamente, se vogliamo fare un salto indietro, un attimo a ritroso, insomma, non sono state le lingue di invasione che hanno cambiato in realtà, non solamente quelle che hanno cambiato il corso, diciamo, della vita del latino, trasformandolo, ma sono state anche le lingue di sostrato, quindi le lingue già uno strato linguistico preesistente sui territori che venivano poi conquistati dai romani. E questo concetto, io faccio ancora gli incubi, è stato introdotto da tale, grazie a Dio, Isaia Ascoli, che è un dialettologo, che ha studiato approfonditamente questo fattore. In realtà è una parentesi, diciamo, storico-linguistica molto bella, perché comunque c'è lo studio delle lingue dei fenici addirittura, ci sono riprove dell'esistenza dei volsci, degli equi, quindi insomma tutta quella parte di centro Italia, ed è molto interessante. E quindi insomma poi la lingua dei popoli romani si è imposta sulle lingue dei popoli vinti e ha sostituito tutto quanto. Poi invece con il tracollo politico e militare dell'impero romano cosa succede? Che cambia soprattutto la fonetica e questa definizione di sostrato in realtà poi ci aiuta a spiegare quelli che sono fenomeni dal punto di vista fonetico, proprio della variazione fonetica, ma addirittura lessicali a volte, e morfosintattici prima che lessicali, ci spiegano che comunque le lingue romanze non possono ricondursi solamente a caratteri strutturali latini. Questo è sicuro, come la morte. Ecco. E appunto si parla per questo delle lingue di sostrato, che vengono considerate propriamente la punta dell'iceberg, quindi la piattaforma del ceppo neolatino. Per esempio, alcune pronunce siciliane vengono imputate non tanto al latino, perché in Sicilia comunque anche il dialetto siciliano in realtà ha un'impronta latina molto forte, ma alcune pronunce vengono imputate a un'influenza araba. Invece, la forma toscana della gorgia è di origine etrusca, almeno si pensa, poi nessuno le ha mai sentiti parlare, questi etruschi. E salta sempre fuori lei. Inutile. È inutile. E poi altre evoluzioni avvenute in lingue gallo-italiche, cosa che avviene soprattutto dalle mie parti, quindi nelle parti del Ferrarese, nelle parti del Ravennate, di tutta l'Emilia-Romagna, insomma. Queste qua. Come si diceva, spazzatura? Rusco. Rusco. Infatti non è veramente latino rusco, come no, mi ricordavo un video, allora rusco Cos'era anche, cosa c'era anche che non era? Era un video di come si fa la raccolta differenziata a Ferrara. Meraviglioso. Il paciugo. Tra l'altro la prossima volta ve lo facciamo sentire come spot iniziale. Bellissimo. E poi abbiamo, se è sostrato, abbiamo anche ovviamente un superstrato, ovviamente, che è rappresentato da una lingua che non si impone sulla lingua parlata in una determinata area linguistica, ma la sua influenza appare nella fonetica, ok? Certo. Quindi è il motivo, ad esempio, per cui abbiamo, che ne so, io ho trovato questi appunti che dicono che abbiamo un superstrato arabo in Spagna, grazie alla Reconquista, che ha rimpiazzato l'arabo che era stato, diciamo, aveva attaccato il sostrato latino che c'era prima, poi è arrivato l'arabo, poi è riarrivato il latino, e quindi di conseguenza comunque il, diciamo, questo superstrato ha determinato alcune pronunce, alcune varianti fonetiche spagnole. E ovviamente chi ha studiato poi questo contesto? La linguistica strutturale. Indania, vuoi dirci qualcosa, Nenia? I mattacchioni. E cause del mutamento linguistico sono appunto studiate da questo tipo di materia, diciamo, ma non solo, anche dalla sociolinguistica, che ha approfondito il concetto di interferenza linguistica, no? Per cui il superstrato diventa interferenza. Bello, oggi mi sento Barbara D'Urso. Ascolto e dico sì, certo, ecco. Quando in realtà ecco, sta pensando sì, certo. No, io seguo alla lettera, che credi? Figuriamoci. Figuremos. Questo non è il mio ambito, quindi sto bellina bellina con le orecchie aperte. Di una mia. Quello cosa sarà? Ora, mio. Ora vediamo che vediamo, sarà. Dai, proviamoci. Non mi ha fatto sì o no? Dai, va bene. Ma un è mio, ad una mia. O coso cadici, no, no, un è a cinese. Vesto VR, ADLB, in dialetto livornese. Mamma le mahane, mi partesse nel catrame. Esce alla pattumiera, puzza più di un buonale. Ma tutti sti briain, dov'è che vogliono andare? Tutta dritto contro il muro, per davvero, meno male. O senti, mi si sta bene, messi via buo pillonzi. Dete piazza Bovio, si sta mia appoggi bonzi. Ma se ero con una fia, la portavo giù a Marina. Con una birra, bella di accia, così la finisco prima. Poi porta anche una sghiuba e gli fa pigliare la stonfa. La voglio un po' bria e un po' gonfia, brionfia. Bonini sei proprio tordo, t'ha proprio una bella botta. Mi sa che n'ha capito, te lo spiego un'altra volta. Ma un è mio, mio, ed una mio, ed una mia, mia. Ciccio, ma un è mio, mio, ed una mio, ed una mia, mia. O coso cadici, no, no, un è cinese. Vesto VR, ADLB, in dialetto livornese. La cannuccia corta, ficcatela nel culo. Se lo chiedi un'altra volta, io ti schianto contro il muro. No, non mi passi la fiera maglietta, io no, ma dammi la ferma, è meglio. No, vedi, vai, amo quanto parli che mi sembri Berlusconi. Ti giuro che sei peggio di un gatto attaccato a coglioni. Da ore ho sto telefono e tutte le applicazioni, ma nemmeno la telecom che fai le promozioni. Ora un pensa male, se solo un po' discusso. Accettiamo ogni credo, anche se si tende al russo. Lo sa forza ragione, un siamo degli atti. A noi ci garba un po' il grezzume. O chi è Pamela Prati? E si bada la sostanza, per noi un è maleduazione. Perché un rutto dopo cena è solo buona digestione. O come sarebbe bello avere un bel castello invece del monolocale via Cisanello. E chiunque non lo pensi, c'ha la mamma che è un budello. Ma a me mi importa nulla, io vi canto il ritornello. Ma un è mio, mio, ed una mio, ed una mia, mia. Ciccio, ma un è mio, mio, ed una mio, ed una mia, mia. O coso cadici, no, no, un è cinese. Vesto VR, ADLB, in dialetto livornese. Ma un è mio, mio, ed una mio, ed una mia, mia. Ciccio, ma un è mio, mio, ed una mio, ed una mia, mia. O coso cadici, no, no, un è cinese. Vesto VR, ADLB, in dialetto livornese. Alla fine, un era mia, mio. Perché noi parliamo di cose veramente importanti, di spessore, ecco, perché dalle lingue romanze poi si passa ad altri concetti, a parlare di parrucchieri. Mancava solo il ginecologo. Poi sono tornata anche io plane. Su questa parola stavo strozzando sotto la regia. Chi ci manca? Che bel pezzo che abbiamo sentito. A me piace, mi fa proprio divertire. Sì, un saluto ai nostri amici di Livorno, sì, che non stanno passando giorni bellissimi. Infatti, ecco, uno dei motivi per cui ho scelto di mettere questo pezzo. Stiamo con loro, anima e core, e potendo magari vi si dà anche una mano, eh. Una mano, poca mano, perché in realtà la situazione giù è ancora parecchio pesa. Non è facile avvicinarsi in macchina. Dalle parti di Montenero so che sono ancora isolati in certe parti, per cui... Però magari, visto gruppi come le Brigate di Solidarietà, hanno attivato dei gruppi, delle piccole unità che vanno apposta a dare una mano. Ecco, magari sì, si potrebbe dare una mano a loro per far sì che il loro intervento sia più agile. Esatto. Quello sì, infatti è importante. Possiamo provare, ci informeremo e vi faremo sicuramente sapere. Sì, ma basta mandare nella loro pagina Facebook, c'è la modalità per fare anche, che ne so, un piccolo versamento, dare un piccolo contributo, mm-hmm, con PayPal, e boh, butta via. Visto che non ci si può andare in massa, magari quei 20 euro che avremmo speso col treno di benzina li diamo a loro, e sanno bene loro come comportarsi, perché queste situazioni le gestiscono molto spesso e le sanno gestire sicuramente meglio di molte altre situazioni, sì, istituzionali. E ne andrebbe solo a far casino. Sì, ecco, per cui. Sì, soprattutto. Io andrei di intralcio magari, perché poi non sai fare una merita cippa e allora tanto vale. Sì, io ricordo di quando era venuto il terremoto su Sudan, la gente che si metteva a scavare nelle macerie, prendeva le badilate sulle mani dai vigili del fuoco perché dicevano: sentite, abbiamo le ore contate, c'è gente sotto. Sì. Così, una tragicommedia, per cui... Sì. Va bene, insomma. Ma, quindi, torniamo a noi. Sostrato, superstrato e derivazioni comuni. E ionosfera. Perché si è appena abbassata la ionosfera, è partito il tramonto e quindi appunto un saluto che ci sta sentendo in AM. Chissà. Ora vediamo. Vediamo e di inventarci qualcosina anche per quello. Le derivazioni comuni. Questo mi piace da morire. Domanda, indovinello. Tra l'altro, se avete visto su Facebook così lo spottino della della pubblicità di oggi, è l'indovinello veronese, che è uno degli esempi tipici di base fossile quasi di lingua romanza da studiare, come il Placito Capuano, Sauco che le terre, eccetera eccetera. E vi faccio una domanda, un indovinello, cioè non è un indovinello, una domanda: perché in italiano si usa sia cacio che formaggio? E soprattutto, come lo contestualizziamo proprio all'interno delle aree geografiche italiane? Cioè, se voi doveste prendere il disegnino di ogni singola regione, quale tra le due parole inserireste? Cioè, che cosa viene detto in Val d'Aosta? Cacio o formaggio? In Emilia, cacio o formaggio? Formaggio. In Toscana, cacio. In Lazio, probabilmente entrambi, ma sicuramente più usato cacio e pepe, e via dicendo. Perché la derivazione diretta dal latino caseus ha colpito l'italiano, diciamo, è entrata nella lingua, bam, cazzottone, è entrata nella lingua italiana senza però essere, intaccata, ovvero la derivazione diretta dal latino della parola casus in italiano ha dato origine alla parola cacio, quindi probabilmente non sono stati presenti fenomeni, diciamo, di superstrato. Invece la parola formaggio deriva da l'occitano, che era fromage, e che ha dato ovviamente vita, se ci pensate molto facilmente, ovviamente alla parola fromage francese. E questo testimonia che quindi la parola formaggio in italiano è un francesismo, è un prestito, ovvero è una parola di derivazione completamente differente che è andata a sovrapporsi o ad accompagnare, diciamo, a diventare come dire, analoga e venire utilizzata nello stesso identico contesto rispetto alla parola cacio. Semplicemente si tratta di quasi culturalmente di essere più avvezzi, diciamo, ai contatti con le lingue, in questo caso appunto sempre dell'area romanza, come può essere il francese, come poteva essere l'occitano, però aver avuto un'evoluzione differente di presenza, diciamo. Ci sono tanti altri esempi, stavo guardando la mia tabellina e In realtà formaggio è una delle poche, perché poi, non so, se prendiamo la parola clavis, clave, la chiave, in sardo come si dice? Crai. Crai? Come la crai? La crai, sì. Sagrai, sì. Però il sardo effettivamente nell'area la romanza... La cicce. E quindi, però il sardo sì, rappresenta, tra l'altro è una cosa molto interessante anche questo, i livelli di evoluzione, di differenziazione rispetto, e di evoluzione proprio di sviluppo, tra virgolette, modernizzato della lingua, rispetto a quello che era una matrice volgare del latino. Il sardo, stando ad alcuni studi, si è sviluppato solamente per l'8%, quindi il restante 92%, è praticamente una cosa bellissima, è una cosa, una lingua, non è fossile perché è una lingua viva, utilizzata, però come per esempio l'islandese, che appartiene a tutt'altro bacino, è una lingua che nel corso dei secoli non ha subito mutazioni. Fateci caso, la peculiarità delle isole, esatto, dell'ambiente, sì. Non chiuso, ma sinceramente poco accessibile, almeno fino a pochi anni fa. Penso, se non ricordo male, anche il corso, infatti, ha queste caratteristiche. Non ho idea. L'ho letto da qualche parte, ma non posso farvi dei riferimenti chiari e coerenti. È una cosa strana, perché le lingue romanze sono il sardo, l'italiano, il corso. No, il corso c'è. Io invece ero convinta che il corso avesse avuto una derivazione sì romanza, ma fosse ancora più attaccato all'occitano. E invece no, è quasi attaccato alla matrice, diciamo, al sostrato castigliano, all'isoglossa, diciamo, che come il sardo anche un po' ha delle parti di castigliano, sì, quindi di spagnolo e non so, Carloforte invece genovese. Beh sì, lì c'è una parentesi storica che poi giustifica la variazione. E basta, questo quindi per, diciamo, la compresenza di terminologie e la derivazione, direi che può essere tutto, perché poi in realtà formaggio era uno degli esempi, ma se non so, parliamo di capra, magari c'è per esempio il sardo, si dice crava, giusto? Sì. Quindi c'è semplicemente uno scambio consonantico, ma... però in quasi tutte le lingue abbiamo capra in italiano, capra in corso, cabra in spagnolo, cabron, portoghese cabra, occitano cabra, catalano cabra, in friulano è chavre. Chavre. Penso si pronuncia così. Sì. Chèvre in francese e capra in romano, in romeno. Tra l'altro il romeno è meraviglioso, ragazzi. È un esempio di lingua romanza. Super lingua. Tra l'altro sì, ha ancora una sorta di declinazione, perché l'articolo viene assorbito generalmente dall'ultima sillaba della parola, tipo il lupo è lupul, ma non, quando lo trovi all'interno della frase non trovi mai l'articolo. Sì. Quindi è una bellissima lingua. Ti vedo in forma oggi, Ho preso il caffè. Sei stata molto brava. Bene, mi piace questo ritorno. Sì, sì. Cosa vuoi fare adesso? Facciamo un salto in Germania. Ti vuoi fare una piccola pausettina? Sì, sì, vorrei fare un salto in Germania. Bene, te lo faremo fare allora. Ubik Media Demon dei nostri amiconi degli Einsturzen de Neue Bauten. Volevo chiedere al mio amico se all'ascolto, il mio amico Alessandro, se l'ho pronunciata bene, che lui è tedesco, madrelingua tedesco, per cui io mi rifiuto di pronunciare il loro nome. Einsturzen de Neue Bauten. E cosa facciamo ora? Più o meno la carrellata sulle lingue romanze, proprio sull'origine della lingua romanza, perché poi magari faremo una puntata sul romeno, faremo una puntata su quelle che sono le lingue più curiose, pure si farà un confronto tra tutte le, tutte, insomma, le variabili e le varianti. Quando su Google digitate linguistica romanza, vi uscirà un articolo abbastanza, sembra interessante a primo acchito, in realtà è un polpettone infinito, anche un po', come dire, senza capo né coda, che è questo articolo del Sole 24 Ore, del 17 luglio di quest'anno, che si chiama L'inattualità delle lingue romanze. Figo, dici, no, adesso vado proprio a leggermelo, perché sono inattuali. In realtà non ci dà una spiegazione particolare. E poi è scritto da un giornale importante, però, 24 ore, però sì, che non si occupa di non si occupa di linguistica, però è un articolo che cita praticamente Marcello Barbato, che è uno dei più importanti linguisti che si occupano appunto poi di linguistica romanza in Italia, assieme a Varvaro. E c'è questo confronto, insomma, poi l'articolo, se ve lo leggete, non è un articolo molto lungo, sono tipo 5 paragrafi, insomma, che parla appunto di come è nata tutto, come è nato il bacino romanzo, di come la linguistica romanza e la relativa filologia, quindi lo studio poi dei testi romanzi, hanno ricevuto un grande slancio durante il Novecento, perché effettivamente prima tutto ciò che era linguistica romanza non veniva considerato come tale, veniva fatto uno studio singolo della lingua, ma questi raffronti non erano mai stati poi portati troppo avanti, come invece i tedeschi avevano già fatto, perché come al solito prima sì, Grimm, fratelli Grimm, oltre che essere, poi ne parleremo sì, magari la settimana prossima, ma i fratelli Grimm, oltre che aver scritto delle fiabe, sono stati degli importanti studiosi di linguistica. Cioè hanno scritto delle fiabe proprio perché sono stati degli importanti ricercatori. Esatto. Non è che uno va a caso e decide di trascrivere i racconti. No, in realtà loro l'hanno fatto dal punto di vista linguistico, dal punto di vista culturale dei personaggi, cioè proprio una serie di cose, ma tempo al tempo. E, in realtà questo articolo dice sì, però la lingua romanza è superata per una questione particolare, cioè che in Europa l'Europa cade a pezzi, no? Politicamente e idealmente. Il rapporto tra culture germaniche e culture latine ormai ha ceduto il passo a altre, diciamo, forme linguistiche come l'inglese, che ormai è praticamente parlato quasi da tutti, addirittura utilizza una definizione che probabilmente approfondiremo, che è il Globish, che in realtà è una sorta di lingua veicolare globale che ha soppiantato, come dicevamo prima, tutto quello che era una lingua romanza parlata anche come seconda lingua, non come lingua madre, ha soppiantato tante altre lingue, nel senso, quando noi vogliamo conversare con qualcuno è chiaro che questa persona, se non è italiana, utilizzerà un sistema linguistico che conosciamo anche noi, che diventa abbastanza, come dire, instabile, perché l'inglese che parliamo io e la Nenia è perfettamente tu mi facevi un esempio bellissimo, che capivi l'inglese degli austriaci quando eri in viaggio, sì, ma non capivi l'inglese dell'hooligan. Sì, esatto, capivo l'inglese degli austriaci, degli australiani, dei tedeschi, dei francesi, ma il londinese puro per me era una nuvola bianca davanti a una bocca che si muoveva. Sì, tremendo. E quindi poi l'articolo andatevelo a leggere, perché è abbastanza interessante, è un buon ripassino di... Male non fa. Non fa, ed è appunto L'inattualità delle lingue romanze di Barbato, che è uscito su Sole 24 Ore il 17 luglio scorso. Tra l'altro, quando facevo quelle facce orribili, e probabilmente ti ho anche distratta dal tuo coraggiosissimo compito di parlare dell'articolo, era perché ho visto nelle notizine accanto che fanno ancora Miss Italia? Cioè, è stata eletta Miss Italia, penso, sì, 2017, vedrai, di questi giorni. Davvero? Sì, fanno ancora Miss Italia. Cioè, esiste ancora il concorso della ragazzetta più bella di tutte. E poi... E viene premiata con la corona da reginetta e la fascetta da sindaco. Fascetta? Sì, no, ma ragazzi, ma poi davvero ci lamentiamo di... Io pensavo, cioè, fosse stata eliminata questa, questa fiera. La vittoria della, tra virgolette, Miss Italia nera. Ah, grande scalpore. Tempi meravigliosi. Non avessero più fatto nulla. No, invece c'è ancora. E, ah, già sì, e poi sottolineavano, per l'appunto, per far vedere che comunque sono politically correct, sottolineavano il fatto che studia legge. Studia giurisprudenza ed è molto giovane. Questa nuova Miss Italia. Non guarda, te lo giuro, io te lo faccio vedere. Ne facciamo la rubrica di attualità. Vedi? Ha 21 anni, studia giurisprudenza. Ecco la nuova Miss Italia. No. Vogliamo vedere la foto di Miss A questo Miss punto Italia. Sì. È vestita di rosso, sembra alto 1,90 m. Ma probabilmente probabilmente è RuPaul. Però, cioè... È una figliola come tutte le figliole che vedi. Cioè, è bella. Sì, no, cioè, boh, è uguale a tutto quello che vedi. Lei probabilmente è la mamma che l'avrà spinta alla passione di farlo. Patrizia Migliani, non ho idea di chi sia. Boh, vabbè. Però è bassa, o meglio, sarà alta come me, è quell'altra che... Sì, vabbè, lei è un 6 metri, un traliccio. Vabbè. Okay, va bene, quindi, mi fa piacere. Facciamo un mix. Mi fa piacere che il mondo cambi tanto, che la situazione, cioè, in realtà, vabbè, no, non voglio. Voglio prima farvi sentire una cosa divertente, perché con tutte queste lingue romanze io non ho resistito. Una cosa. Non ho veramente resistito. Dovete perdonarmi, ma questa ve la meritate tutta. Yo vorrei tocco. chissà chi vincerà. Questo amore è una camera a gas, è un palazzo che brucia in città. Questo amore è una lama sottile, è una scena rallentatore. Questo amore è una bomba per te. Questo amore è una finta sul re, è una fiamma che esplode nel cielo. Questo amore è un gelato veleno. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Qui c'erano un po' meno applausi. Non è stato apprezzato. Vabbè, però era molto carina l'idea fotoromanza. Sì, dai, come poi, facevi a passare? Dicevamo poco fa, il titolo è geniale, bellissimo. Fotoromanza, proprio bello. Come facevi a non, entrando in quella cartellina, vedendo questo titolo, cioè, non esisti. Come fai? E non è ancora finito, perché adesso ci salutiamo. Vediamo tutti gli appuntamenti della settimana, tanti bacini, ma poi concludiamo con un pezzo bomba, ragazzi. Il sorpresone finale è per riallacciarci alla 1.0, l'ultima trasmissione che abbiamo fatto prima dell'estate. Che se ci fate caso. E loro avviano e concludono la stagione estiva. Sono il nostro alfa, il nostro omega. Ecco. Per ricordarvi di che pasta siamo fatte. Allora, cosa vi dobbiamo ricordare oltre a questo? Il nostro sito, sicuramente lo conoscerete ormai perché ci siete dentro, inside, perché ci state ascoltando. E quindi wombat.noblogs.org. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo twitter.com, Radio Wombat Firenze, Facebook uguale... minchia.com, radio-wombat-firenze. La mail l'abbiamo detta prima, ma ripetiamo: posta wombat@insiberia.net. Bellissima, è bellissima. Sì, perché Wombat va in Siberia. E poi abbiamo gli appuntamenti della settimana. Abbiamo poche cose scritte in agenda. Una di queste è il concerto al Next Emerson a Firenze, il concerto dei Nuovi Rumori. Quando si tiene domani? 5 gruppi domani, wow. Esatto, domani subito dopo cena c'è questo fantastico concerto. La seratona, ragazzi. Sì, questa sarà davvero una seratona, gruppi da ovunque. Ci sono anche i Brutti di Casa, i Carlos Dunga. Poi ci sono gruppi di Milano, dalla Spezia. Andate a vedere Next Emerson. Fiorentini all'appello. Next Emerson e Nuovi Rumori. Sia su Facebook che sul sito troverete le maggiori informazioni. Non ci saranno i ministri, mi dispiace. No, no, i tuoi sogni non si avverano. Mi dispiace. Avrete notato, tra l'altro, che nel nostro bobinone ci sono nuovi pezzi. Nuovi pezzi bellissimi, esatto. Anche pezzi molto tristi per colpa di qualcuno che conosco, ma va bene, perdoneremo anche lei. Le 5 di sera ed è già buio pesto, che freddo che fa, e noi sì. La puniremo per questa cosa. Sì, e noi invece... noi invece siamo ancora un po' nel mood brillante e solare, e allora vi faremo sentire l'ultimo pezzo che chiude la nostra trasmissione. Qui vi salutiamo. L'omega di oggi, sì, e l'omega, sì, della, sì, stagione. Sì, anche tre. Vi salutiamo, vi diamo tanti bacetti, ci risentiamo giovedì prossimo alle 19.30, come sempre, da d'ora in poi fino a giugno vi verremo a noia. Vediamo. Ma soprattutto speriamo di avere abbastanza argomenti. E soprattutto speriamo che questa puntata si sia sentita finalmente bene. Ce l'auguriamo. Ci dicono per di tutti sì, voi. Però ora vediamo. E per le vostre orecchiette. Allora, ciao. Ci sentiamo giovedì prossimo. Un bacio a tutti. Hello. Ciao. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più, è il solito rituale, ma ora manchi tu. Se non mi va, l'estate sta finendo.